I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Se in Italia ancora ci si interroga sulla qualità della nostra vigilanza e soprattutto sulla capacità delle autorità di stroncare, prevenire o quantomeno reprimere gli scandali finanziari, notizie che vengono dall'Inghilterra non sono affatto rassicuranti. Stiamo parlando dello scandalo del Forex, il famoso mercato delle valute, che sarebbe stato manipolato da almeno 4 grandi banche internazionali a proprio vantaggio, cioè manipolando un po' sui tassi di cambio in modo da poterci guadagnare. Che cosa è successo? È successo che, mentre in America le banche accusate hanno pagato una multa di 10 miliardi di dollari ammettendo le proprie colpe, in Inghilterra non si è nemmeno riusciti né a staccare delle multe, ma nemmeno ad individuare i colpevoli. È un po' un paradosso. Se per il Dipartimento della Giustizia americano le banche sono colpevoli, per quello inglese non si riesce a capire né i trader, cioè gli operatori di mercato che hanno manipolato le valute, e neppure le responsabilità delle singole banche. Tanto è vero che lo stesso Serious Fraud Authority, l'agenzia inglese che si occupa di vigilare sul mercato, ha delegato alle autorità americane l'inchiesta per lei. È un po' un paradosso, ma ci spiega anche qualcosa di più. Mentre davanti alle autorità americane, che hanno grandi poteri investigativi, le grandi istituzioni finanziarie hanno paura del confronto in aula giudiziaria, in Europa questo non avviene. Dovremmo forse imparare qualcosa da lì? Certamente in campo di sanzioni e di potere del Dipartimento della Giustizia, l'Europa farebbe bene, e soprattutto anche l'Italia, a seguire l'esempio americano, maxi sanzioni e responsabilità individuali. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. L'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali concesso alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato ha avuto un effetto decisivo sull'andamento del mercato del lavoro nel 2015 e soprattutto sull'incremento del numero di rapporti di lavoro stabile. Ora sono i dati ufficiali dell'INPS a dare conferma di una cosa che in qualche modo veniva già suggerita dal buon senso, e cioè che il mix tra un sistema di regole più flessibili, quelle arrivate con il Jobs Act, e il taglio al costo del lavoro per le imprese grazie allo sgravio contributivo hanno funzionato un po' per tamponare l'emergenza occupazione. Tra l'altro c'è anche un ulteriore elemento che conferma l'importanza, il valore direi, dello sgravio contributivo. Nel mese di gennaio il saldo tra i nuovi contratti a tempo indeterminato e le cessazioni è stato positivo per 37.000 unità, quindi 37.000 posti di lavoro stabili in più. Un buon dato, ovviamente, positivo, ma in calo, anzi in forte calo, il 58% in meno rispetto all'anno prima. Come sappiamo, lo scorso anno l'esonero dai contributi durava un triennio, arrivava a coprire fino a un massimo di circa 8.000 euro di contributi. Quest'anno invece lo sconto è stato ridotto a durata biennale e arriva a coprire un massimo di 3.250 euro di contributi. Si riduce il bonus, quindi, e si riducono le assunzioni con contratti stabili. È un segnale che va colto e che pone qualche incognita sul prossimo anno, quando si uscirà definitivamente dal meccanismo del bonus contributivo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.